ci ho messo 2 anni. Tu non sai neanche più dove sto. Mi sono perso a furia di dimenticarti. Non è servito a niente il mio disco. Il mio disco. Credo di essere pronto per dirti che non riesco neanche a vestirmi. Quando esco di casa la notte con gli occhi tristi, sa come capirmi, sa come colpirmi. Sto allenando tutti i muscoli del viso per il giorno in cui ci incontreremo ancora. L'ho accettato ma non so chi l'ha deciso. Il tuo nome è ancora scritto sulla suola. Ci ho messo 2 anni. Tu non sai neanche più dove sto. Mi sono perso a furia di dimenticarti. Non è servito a niente il mio disco. Il mio disco. Dimentico il tuo numero a memoria. Mi voglio regalare una vacanza in Sud Italia. Senza distanza non c'è storia. Ma va tutto bene o forse mi conviene. Sto allenando tutti i muscoli del viso per il giorno in cui ci lasceremo ancora. L'ho accettato ma non so chi l'ha deciso. Tuo nome è scritto sotto le lenzuola. Tu non sai neanche più dove sto. Mi sono perso solo per poi ritrovarmi. Non è servito a niente il mio disco. Il mio disco. Soffitto, quant'è che ci vuole? Stendiamoci al sole.